Ni una menos, ni una menos. Le ribelli, eccole arrivate. Siamo tornate, come ogni domenica. Speriamo siate pronte, pronti, tutte, tutti, tutto, perché oggi è una puntata un po' speciale. Un po' frizzantina, forse. Da frizzigorizzo. Ma chi è entrato qua? È entrato qualcuno? Abbiamo un intru... un intruso molto carino e coccoloso. State pronte, perché ci siamo. A tra poco. Ni una menos, si se pintó los labios, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, si baila el reggaetón, ni una menos, si te dejo por otro, ni una menos, si vuelve tarde a casa, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos. Menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, cabrón, ni una menos. Siamo le ribelli e siamo tornate. E sono le 17.02 di una domenica spumeggiante del 6 dicembre 2020. E oggi è una puntata un po' speciale. Perché non seguiremo il solito filo e la solita strutturazione della puntata. Saremo un po' birichine. Birichine? Molto. Siamo un po' birichine. Perché non abbiamo voluto dire di che cosa tratteremo oggi. È un po' surprise e vedo qua che le persone iniziano a connettersi, ad attaccarsi al programma, pronte per scoprire la tematica della giornata. Ma dici che la svegliamo? Ma non lo so, vogliamo svegliarla. Io perché sto ancora dormendo. Dovremmo in effetti anche svegliare le persone, ormai... Sveglia! La valore dell'aperitivo... Allora, volevo provare anche a mettere il tappeto, però sono... ho paura, Lore. So che sei in ascolto, ho paurissima a fare questa manovra. Intanto vai, Gioia, parla, che così metto il tappeto. Allora, diciamo che sicuramente ci siamo preparate moltissimo per questa puntata. L'abbiamo preparata davvero con un grandissimo anticipo. E... per questo sarà una puntata decisamente che tutti ricorderemo nelle nostre vite. E questa puntata ha un po' come modus operandi, come forma mentis, una novità, perché dovete sapere, Le Ribelli sono un programma di una radio più grande e in questa radio più grande ci sono tanti altri programmi. E uno in particolare ha una modalità un po' simpatica, certo noi... dipende dai punti di vista. Ovviamente, però comunque è giusto che supportiamo anche i programmi della radio di cui facciamo certamente parte. E quindi abbiamo deciso di impostare un po' cioè questo programma in forma di zona rossa. Olè! Ragazzi, sentitevi onorati del fatto che Le Ribelli oggi hanno deciso di copiarvi. Assolutamente. Per chi non lo sapesse, Zona Rossa è un altro programma che va in onda il mercoledì. Non mi ricordo l'ora, ma probabilmente non è neanche importante. Alle 18. alle 18. E quindi quello che riprenderemo del programma Zona Rossa sono le chiamate. Noi entreremo nelle vostre camerette, nel vostro bagno, nella vostra doccia, oppure nella vostra cucina o nel vostro letto, a seconda di dove abbiamo il consenso, e vi faremo una domanda un po' frizzantina. Sì, oggi diciamo che l'obiettivo è quello di venirvi a prendere. Eh certo, perché vi nascondete e noi vi troveremo. Vi vogliamo stanare, vogliamo mettervi un pochettino in imbarazzo forse? Forse. Solo con alcune, chi lo sa. Infatti abbiamo una lista, una bellissima lista, non so se in realtà si sente. Questo è il foglio su cui abbiamo scritto i nomi delle persone che vorremmo chiamare. Scusate, però vorrei ricordare una cosa, Gioia. Mi dica. Perché ovviamente noi telefonicamente possiamo raggiungere persone che conosciamo, mm-hmm. ma noi possiamo andare oltre, perché ovviamente i nostri canali sono sempre tutti aperti, sempre tutti pronti. Aia, oggi non ce la fa. E quindi, volendo, anche chi volesse interagire con noi, ma non abbiamo il numero, a parte il fatto che volendo ce lo puoi inviare, ne dubito fortemente, ma sicuramente. Però potete scriverci al nostro fantastico, alla nostra fantastica chat di Telegram, ovvero @radiozam_chat. E così noi poi vi rompiamo le scatole anche a voi. Poi c'è anche il canale Facebook, potete scriverci alla pagina del radio, Radio ZM. O se no, anche sulle canali Instagram delle ribelli direttamente, ovviamente. Qualcuna delle nostre ribelli connesse in via telematica on air, come si dice, nell'etere, vuole ricordare il canale Telegram? Beh, non fate, dai ragazzi, non siete timide. Ma Telegram o Instagram? Instagram. Ma Telegram o Instagram? Instagram. Instagram è le Instagram le_ribelli_zam. Ale, wow. Quindi dai, scrivete numerosi e vi ricordi, abbiamo detto la tematica? Eh no, infatti adesso volevo proprio arrivare a questo punto. Ecco, perché là, ci dicono di abbassare adesso i microfoni. Abbiamo, ecco, i microfoni troppo alti. Va bene, allora li abbassiamo. Siamo entrate troppo di prepotenza in vogliono casa? Mutarci. Ci vogliono far star zitte! Allora, la tematica, adesso che è stata tanto attesa, è la mascolinità tossica o egemonica. Ta-dam! Tan-ta-da-da! Oppure zan-zan-zan-zan! Che si addice al tema. Esattamente. Ma io sono messa a fare le canzoni, questa è Gioia che fa tutto, anche le onomatopeiche. Cosa? Cos'è che hai detto? Ma io cosa metto a fare le canzoni se poi c'è Gioia che canta, balla, fa tutto, anche le onomatopeiche? Qua ci stiamo facendo un corso accelerato e per funzionare. È un modo per dirmi di tacere un pochino. Va bene, lo apprezzo, Jessica. Allora, spero che qualcuno da casa abbia iniziato un po' a sudare, perché spaventato. Qui mi spiace. Come se la ride la Mercu. Oggi le telefonate saranno rivolte ad un pubblico maschile e non saranno piacevoli. Così vedremo chi ci risponde, perché non sta ascoltando il nostro programma. E adesso vedi che tutti hanno spento il telefono. Vabbè, va bene, allora basta. Quindi cosa vogliamo fare? Mandiamo una canzoncina? Una canzoncina per potente. Stemperare un attimino la tensione che si è sicuramente creata. Esatto. Lady J, ci vuoi dire qualcosa su questa canzone che stiamo per andare a lanciare, ovvero qual è il titolo? Non mi ricordo mai. Artista Gossip. Standing in the Way of Control, dei Gossip. Vuoi dirci qualcosa perché hai scelto questa canzone? Ma certamente, voglio dire che Beth Ditto, che è la cantante del gruppo, è dichiaratamente lesbica, è nota per il supporto ai movimenti LGBTQIA+ e femminista. Ha scritto questa canzone come reazione all'introduzione nella carta costituzionale americana del cosiddetto Federal Marriage Amendment, con cui l'amministrazione di Bush mirava a rendere fuori legge i matrimoni omosessuali. Minchia, pure una dottoressa comunque. No, per il momento stavo per lanciare questa. Io mi sento tutta in ritardo. Ma sì. Infatti sì, è così. Ok, perfetto. Allora la lancio, cosa dici? Lancio questa ciunna, posso continuare a dirlo? Ci sta. Perfetto. Vai con questa ciunna, vai. Ormai mi sono accalappiata questo nuovo termine, è tutto mio. E ecco a voi. Non impara mai alla Giulia Mercu. No, mai, anzi, proprio recidiva. I Gossip. We'll be right back. Rieccoci qua. Direi che prima di iniziare il momento chiamate moleste, leggiamo un po' qualcosina così da introdurre l'argomento di oggi, che ripetiamo essere la mascolinità tossica o egemonica. A questo proposito ci siamo un po' preparate, ovviamente, perché questa puntata l'abbiamo preparata ormai già da troppo tempo e davvero non vedevamo l'ora di andare in onda. E una lettura a cui abbiamo pensato è presa da un articolo di Dinamo Press che si intitola «Oltre alla mascolinità tossica, riconoscere potere e privilegio dentro di noi». Questo articolo è scritto il 30 novembre di quest'anno da Riccardo Carraro. Direi che solo io potevo leggere il suo nome e il suo cognome in questo modo meraviglioso. Lo abbiamo fatto apposta, lo Gioia. So. E grazie mille. Prego. Ok, allora io vi leggerò adesso dei piccoli estratti. In realtà si tratta dell'inizio. Cosa si intende per mascolinità tossica? Perché è un modello dominante e quali le vie di uscita? Confronto tra attivisti e studiosi che hanno messo in discussione paradigmi e modelli generatori di violenza e patriarcato. La giornata mondiale contro la violenza maschile sulle donne ci interroga necessariamente sull'origine di quella violenza e su un modello di maschile tutt'oggi imperante. Abbiamo voluto pertanto creare uno spazio di confronto tra attivisti e studiosi che hanno riflettuto, scritto e che si sono attivati sulla questione in questi anni per avviare un confronto che è ancora estremamente ridotto oggi in Italia, ma che è assolutamente necessario. Abbiamo quindi parlato di mascolinità, privilegio e potere con Lorenzo Gasparrini, scrittore, studioso e attivista romano, che ha scritto vari libri sulla tematica. Renato Busarello, attivista del laboratorio Smascheramenti di Bologna, e con Davide Filippi, attivista che ha pubblicato un suo contributo sul tema per Dinamo Press. La domanda è, partiamo anzitutto da una definizione. Che cos'è per voi la mascolinità tossica? Renato, uso poco il termine e lo ritengo in parte fuorviante. Preferisco usare l'aggettivo egemonica. Tossica suggerisce una devianza patologica rispetto alla normalità, ma quei modelli non sono deviati, sono la norma, sono così egemonici che è difficile costruirsi in identificazioni alternative ed è per questo che è così difficile uscire dal branco. Anche se nessuno di noi si identifica con il maschio violento, patriarcale, stupratore, sappiamo quali sono le complicità esistenti tra quel modello e la costruzione generale del maschile in cui tutti noi cresciamo. La realtà, da ammettere, è che la mascolinità egemonica è costruita a sostegno dell'eterosessualità obbligatoria, come regime sociale che comprende tutte noi, anche noi che siamo froce, perché siamo costruite in questa normatività e ce la portiamo dentro. Davide, ho ricordato il momento in cui è nata Non Una di Meno, che protestava contro la violenza maschile sulle donne. Dopo molte discussioni ho capito il significato di quella violenza maschile. Il maschile è il problema. Possiamo dirci che esistono maschilità non egemoniche, ma chiamare tossica quella egemonica rischia di evidenziarne la devianza ed è rischioso. Non è deviata, è la norma. La maschilità egemone non è interrogata come violenza, è naturalizzata nelle nostre pratiche relazionali. Si vede in tutte le persone che per sfortuna o non desiderio non si sono mai interrogate sui loro ruoli di maschio all'interno delle relazioni. È egemonica perché è presente nella nostra quotidianità relazionale. Lorenzo, sono d'accordo e aggiungerei un pezzo. Devo dire che ho usato entrambe le formulazioni a seconda dell'aspetto che preferivo mettere in luce. L'aggettivo tossica regge perché esattamente come una sostanza tossica non fa male subito, si accumula nel corpo e quando si supera un certo livello diventa evidente all'esterno. Similmente il concetto di egemonia mi ha permesso di spiegare il privilegio maschile. Privilegio non vuol dire benessere. Vuol dire che hai delle possibilità in più che altri non hanno e a cui non sono destinati. Hai dei diritti che altri non hanno malgrado siano nella stessa situazione. allora... Interessante, ci sono tutta una serie di concetti, parole che... Sarà molto interessante scoprire infatti, approfondire. Sì, e secondo me questo è un ottimo punto di partenza per questa puntata. Cioè, sì. Secondo me, secondo tutto il gruppo che ha costruito questa puntata, era un ottimo modo per cominciare, per introdurci all'argomento. E sicuramente è anche un dibattito aperto, o meglio, esiste chiaramente tutta una letteratura che studia questo e che chiaramente non può essere tralasciata. Dopodiché penso anche, cioè per via di tutte le momenti di formazioni che ci sono stati a livello collettivo, non solo dei ribelli ma anche di, nel senso più ampio, chiaramente poi il modo in cui si declina in ogni biografia, in ogni esistenza è diverso, no? E quindi si manifesta in maniera diversa anche all'esterno. Sarà interessante scoprire come. Direi che andiamo a fare la nostra prima telefonata. Sì, quindi devo fare qualche magheggio. Un secondo, Giulia, puoi intrattenere tu. Sì, allora, ovviamente non vogliamo essere né fastidiose né mettervi in difficoltà, cari ascoltatori. Quindi state pure tranquilli. Sarà una chiacchiera interessante per scoprirci, stare appunto un po' insieme, confrontarci su questa tematica che non è affatto facile. È partita la prima telefonata, vediamo se risponde. Dai! Si sta chiedendo, ma perché questa mi chiama a quest'ora di domenica? Per qualcosa di... Pronto? Ciao, benvenuto in diretta sulle Ribelli! Ciao Jacopo! Ciao! Come stai? Mi chiamate nel momento in cui sto facendo le mie faccende di casa, pulendo casa. Ma lei è il momento migliore. Sei fantastico. È il momento migliore, così ci puoi dedicare tutto il tempo e tutte le attenzioni. Puoi stare al telefono, metti il viva voce, quindi guarda, puoi continuare nel frattempo. Mi faccio la mia pausa, dai. Ma che carino. Guarda, davvero, guarda. Siamo onorate. Allora, ma non ti sembra strano che le ribelli chiamino così e irrompano nelle case delle persone? Cioè, non ti ricordo un altro programma per cui già sei stato chiamato? Madonna. Sì, la differenza è che noi siamo... Sì, diciamo che chi chiama l'altro programma è fatto male e chi chiama non è simpatico come voi. L'ha detto! E vai, spero che qualcuno di Zona Rossa sia in ascolto. Beh, comunque c'è anche il podcast. Io questo qua, questo pezzo me lo mando in loop. Lo registriamo e lo mandiamo. Ma Giulia mi ha dato dei soldi per dirlo. Sì, è vero. Ma lo sappiamo. Abbiamo fatto la colletta per questo. Allora, caro Jacopo, non sappiamo se tu fossi in ascolto delle Ribelli. Non ce lo dire, non vogliamo sapere. Oggi abbiamo deciso di fare questa sorta di irruzione nella vita dei nostri amici e compagni, fratelli, zina, insomma, chi è più ne ha più ne metta, per parlare un po' di mascolinità tossica. E volevamo essere praticamente un po' dirette, ma ovviamente partire in modo abbastanza leggero, soft, proprio per metterci a proprio agio tutti quanti. Non so se lo sai, abbiamo lanciato intanto, perché era tutto un po' a sorpresa, i giorni scorsi abbiamo lanciato la prima domanda. Tra l'altro, infatti, come vuole anche il programma di Zona Rossa, c'è sempre una domanda che guida tutta la puntata. La nostra l'abbiamo pure pubblicata in anticipo, quindi chi è stato attento e attenta in realtà già la conosceva e la conosce. Tu la sai? Io non la so, perché non sono stato attento. Va bene, sì, allora Giulia avrà l'onore di fartela. Allora, la prima domanda è per sciogliere un po' il ghiaccio. Caro Jacopo, quando c'è una persona che ti piace, tu come approcci? Beh, quindi nell'epoca pre-Covid parliamo di questo. Sì, dai, facciamo che in generale, oddio, nella vita cosa succede? Oddio, come si approccia? Non lo so, Dai, che lo sappiamo che sei un conquistador. No, non lo so, nel senso, non ho idea di... Cioè, nel senso, non, non penso di avere, come dire, una ricetta standard, uno schema fisso sulle situazioni, nel senso che dipende un po' dal contesto in cui ti trovi, dipende un po' da... Ma quali sono le armi che metti in campo? Io... Non lo so se è una domanda... Vuoi che le dica io per te? No, scherzo. No, interessante, ma nel senso... Beh, se no, se ti provo a aiutare, prova a ricordarti di una volta... sia che sia andata bene sia che sia andata male, però di una volta in cui hai approcciato qualcuno, se ti può aiutare. Dipende sempre, tendenzialmente prima di tutto, anche se è successo, tendenzialmente cioè, approccio con persone che già conosco, nel senso con persone con cui ho comunque già una conoscenza minima, quindi persone che comunque non sono estranee dalla mia vita, tendenzialmente, nel senso che difficilmente, nonostante sia capitato, non è che vado, non so, al bar e ci inizio a provare con una, tendenzialmente è... Ma quindi, è nel senso, visto che tendenzialmente sono persone che già conosci almeno un pochino, vuol dire che guida di tutto l'approccio è il fatto che c'è già qualcosa in comune... Che vi lega in un certo senso. Sì, non per forza qualcosa in comune, però nel senso è una persona che già conosco e quindi nel senso mi è più facile, cioè, capire se è una persona che mi interessa o con cui voglio approfondire questo interesse, se esiste un interesse o meno. Tendenzialmente non, però non è che sono al bar e magari... Ma allora la domanda... Suona, cioè, mi esce così. Come fai a capire che l'altra persona ci sta? Ma questo non lo sai, come dire, non lo sai mai, nel senso non lo, cioè, poi dipende, non lo sai mai se l'altra persona ha un interesse corrisposto, e poi nel senso, dipende poi che tipo di interesse uno ha negli altri confronti, nel senso magari quello che cerchi tu è diverso da quello che cerca l'altra persona, esiste un interesse di entrambi ma su robe diverse, quindi, su piani differenti, sì, su piani differenti, quindi nel senso non per forza quello che tu vorresti da quel tipo di relazione è quello che vuole l'altra persona e viceversa. Però tendenzialmente nel senso non è che nel senso è ma la roba più facile e banale, che c'è, cioè, nel senso, cioè, chiedere di provare una persona di uscire, cioè, andiamo a berci una cosa, andiamo, ci becchiamo per un caffè, punto. Però nel senso non, cioè, se già uno ti dice di no, l'approccio è già finito lì, e quindi, cioè, nel senso, quindi condividere intanto una bevanda calda o... Sì, dipende dal momento, in questo momento col freddo che c'è direi una bevanda calda, però... No, dovremmo scrivere il libro, i consigli di Jacopo. No, nel senso che poi ti prendo in giro. Tu non sai mai, nel senso, anche per i tipi di relazione che ho avuto, per i tipi di, cioè, nel senso, se il tuo interesse corrisponde all'altro, quindi non per forza neanche, diciamo, andarsi a bere una roba con una persona corrisponde al fatto che se l'altra persona ti dice ok, va bene, andiamoci. Poi cioè, debba nascere qualcosa, certo, di qualunque tipo, nel senso non è vincolante il fatto che lei mi dica sì, perché, cioè magari... Perché sappiamo che il consenso è una cosa che va dato e può essere revocato in un qualsiasi momento, dell'esistenza. Devo dire che sapevo di anche contare... Andare a bere una cosa non è, nel senso, non è un consenso, è un consenso al conoscersi, andare a bere qualcosa, esatto. A bere qualcosa, il che non implica nient'altro, poi nel senso questo è la base, secondo me, poi cioè nel senso difficile, io non mi sono mai trovato nella situazione di dover chiedere, nel senso, il consenso, se non so, non voglio essere mai di dire ok, va bene, facciamo l'amore, cioè nel senso è difficile che si chieda, però mi è capitato più di una volta con situazioni un pochino più complesse per fattori anche esterni, di dire guarda, cioè, va bene così, cioè, a me va bene così, posso anche, cioè, nel senso, non bisogna per forza, cioè, non bisogna per forza concludere questa sera, cioè, nel senso, di rassicurare la persona, il partner che hai davanti, nel senso che, cioè, nessuno ci costringe a fare una cosa, nel senso, se si vuole fare si fa, io ne posso anche andare, possiamo mettere su un film e possiamo dormire in letti separati, roba che ho fatto nella mia vita, certo. di dormire in letti un'altra separati. Un'altra domanda, Stump, Jacopo, se ti va, di sì. Raccontarci un episodio che può essere stato magari non imbarazzante, perché magari ovviamente di condividere un imbarazzo intimo, oddio, vabbè, che può essere considerato intimo in radio è un po' difficile, però se ti viene in mente un episodio un po' divertente di un tuo approccio, di un approccio che hai ricevuto e hai voglia di condividerlo, noi lo accogliamo molto volentieri. Un approccio divertente, no, ma divertente approcci, non so che siano divertenti, non lo so, nel senso, ma non lo so qualcosa di che è successo che magari è stato un po' goffo e quindi ha creato magari una risata, oppure ci hai pensato dopo e ti sei detto ah cavolo, ma che coglione sono stato, che ridere, qualcosa di questo tipo. Mi ricordo una roba di quando ero in Erasmus, quindi parliamo di un secolo fa, cioè è una roba che un po', nel senso che poi tu ragioni, cioè non so, una roba che su di me ho ragionato molto, nel senso che subisco cioè se una persona con cui che conosco o non conosco ha nei miei confronti non so, un atteggiamento non è aggressivo però molto molto diretto, cioè nel senso io ma una roba che va imbarazza di brutto, non so come fare. Se uno ti dice, una persona che conosce o non conosce, mi dice ok, va bene, ma guarda, stacco fra un quarto d'ora, andiamo a scopare. Mm-hmm. Ecco, io... Come reagisce il tuo corpo a questa cosa? No, io ho un rifiuto completo. Non, che no, che se penso... Ma ti arrostisci, inizia a balbettare, sì, cosa succede? No, sul fatto che non so cosa dire, tendenzialmente no, è come se mi metti al muro senza difese, non so cosa risponderti. Tendenzialmente, cioè nel senso, da un lato direi che cioè, un bomba è quello che sognavo, in realtà poi dico no, non mi interessa. Forse guarda, secondo te può essere una possibile spiegazione, anche se non completa, il fatto che magari sei abituato a vedere te stesso, chiamiamolo, diciamo, facciamoci passare questo termine, all'attacco, e quindi questa cosa magari un po' ti... No, secondo me, cioè, non è tanto nel senso che poi non so, scusami, poi non sono sempre all'attacco, quindi mi piace, cioè dipende dalle situazioni, è proprio la questione diretta, okay. Ma anche legata al sesso, non so come dire, specialmente legata al sesso, ok, che, quindi bisogna introdursi a questo, sì, cioè, anche cioè, poi okay. Ma in realtà nonostante poi non so, una roba che ragionavo fra me, cioè, nonostante nel senso a seconda dei periodi della vita ogni persona cerca qualcosa di diverso, quindi nel senso non per certo. Forza, anche in quei momenti in cui uno me l'ha chiesto io cercavo altro, magari cercavo esclusivamente anch'io del sesso, quindi non c'era niente di male. Detto questo, parlare in quella maniera, in quel modo, a me personalmente non ne sono abituato, è una questione infatti anche okay. Su cui devo ci rifatto sempre. Tutto, però non è nulla di quindi, così tanto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori la vivi come una sorta di sovradeterminazione? Non lo so, è che forse io non sono abituato a, cioè, soprattutto con le persone strane, che mi è successo un paio di volte, di dire sì, ma io non so neanche chi cazzo sei, ma perché devo, cioè nel senso, beh, un po' quello che succede sempre già dai, adesso esagero, magari casco nello stereotipo, però è una cosa che succede molto spesso, no? Almeno a me, cioè di avere degli approcci così diretti e dirmi ma tu chi cazzo sei, cioè, ma nel senso, ma nel senso, io dico, cioè, invece di dirmi, cioè, a me è la roba che se tu mi avessi detto ma vai, quando stacco ci andiamo a bere una cosa, dico vabbè, è già un livello, ma dire andare direttamente, come dire, al sodo, dico sì, vabbè, ma va bene, grazie Jacopo, quindi direi a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di avere un approccio un po' più delicato con Jacopo e di non arrivare così dritti subito al sodo, ci vuole un po' di preparazione, va bene? Sì. Ok, tanto in questo periodo va così, no? Va così, va bene. Jacopo, noi ti ringraziamo di cuore per questa Sei chiacchierata. Sei stato bravissimo. Molto. Ci vediamo domani sera. Va bene. Ciao Jacopo. Ciao. Buona serata. Ciao ciao. Wow wow wow wow wow. Hai visto che anche gli uomini hanno bisogno di, cioè, non è una questione, vedi, maschile, femminile. Non c'è un bottoncino, cioè, che si schiaccia. No, no, no, no, no, no. Va bene, mandiamo una canzoncina? Ma certamente, Lady Jay. Aspetta che Lady Jay non ci può rispondere. Certo, nel frattempo qui in regia facciamo delle piccole acrobazie, vi teniamo comunque ecco sempre fatto. In nostra compagnia. Cara Lady Jay, sei tornata? Ah no, non è tornata. Perché non perché ci possono non ci sentire, sentire, gioia. E mi sa che ci ha mutate loro. Vediamo, vediamo se adesso... Ok... Lady J, vuoi dirci qualcosina su questa canzone? Yeah, yeah, yeah. Molto profonda. It's with a roll. Questi sono i miei pop-up. Arrivi Lady J. L'audio è sempre un po' in ritardo. Lady J è ancora... col muto, no, va bene, no. Ok, niente, quindi yeah yeah yeah yeah yeah yeah, it's with a roll, tutta per voi. Glitter on the wall. funziona esattamente come un bar. Tornate in diretta, ragazze. Scusate, qua sono indisciplinate le fanciulle. No, non vi ho avvisate io che stava finendo la canzone. Che scherzo, che bello, che birichina che sono. Allora, in realtà la nostra amatissima, fantastica, meravigliosa, sono tutti gli epiteti della nostra amatissima, fantastica e meravigliosa Lady J. In realtà lei ci voleva dire qualcosa su questa canzone che abbiamo appena ascoltato. E che ora ho messo a tappeto. Sì, ma due robe che poi alla fine, cioè... Io non solo a me praticamente, non è vero. Comunque, gli Yes sono un gruppo che io ascoltavo tantissimo quando ero superiori, ma tipo che cioè 24 ore su 24. Questa canzone si chiama Heads We Roll, che visto che la puntata è Vi Veniamo a Prendere, Heads We Roll, le teste rotoleranno, miei cari, miei cari, miei cari. No, vabbè, già adesso non esagerare che qua smettono di ascoltarci tutti, spengono i telefoni, tutto, partono per la Siberia, cioè... Ok, allora... facciamo squillare ancora questo telefono. Facciamo suonare i telefoni. Quindi Giulia, intrattieni che io faccio il change. Sì, no, vedo che in realtà pian piano la gente si fa coraggio e stanno connettendo sempre più persone oggi alla diretta. Bravi, brave, bravo. Non siamo così, avete sentito la telefonata con Jacopo che è stato, vabbè, io diciamo che andavo un po' sul sicuro, Ho fatto la prima telefonata facile, volevo vincere facile, quanti complimenti, e, però appunto vuole essere un modo per venirci incontro, insomma, scoprirci, confrontarci, non c'è assolutamente giudizio in quello che vogliamo fare, forse, no scherzo, e... possiamo soltanto appunto imparare le une dagli altri. Ed ecco che squilla il telefono, vediamo se risponde. Tanto vediamo se è il numero quello giusto. Sì. Domanda... Più che altro che se non è il tuo numero, dice, ma io non risponderei al numero che non conosco. Ne parlavamo giusto prima. Già. Pronto? Ciao Vlad. Ciao Vlad. Benvenuto, sei in diretta sulle Ribelli su Radio ZM. Siamo la Mercu e la Gioia con l'articolo davanti. Esatto. Grazie ragazze. Prego. Ci stavi aspettando, vero? Lo sappiamo. Minchia, che... ero qua da giorni che dicevo quando mi chiameranno. Ma perché infatti lo dicevamo anche prima, tu non sei stato adesso il primo, ahimè, ad essere stato chiamato, ma comunque nei nostri cuori sei praticamente il primo, quindi non sentirti in difetto assolutamente. Ma no, mi preoccuperei se fossi proprio il primissimo. Cioè allora, per voi più che comunque diciamo che questa nuova tecnica, strumento delle Ribelli, non è che ce lo siamo inventate noi. Come ben saprai, esiste un altro programma qui nella radio di ZAM, sì. Che utilizza questa tecnica di entrare, tuffarsi nelle case delle persone, che è Zona Rossa. Certo, tanto per creare un po' di disturbo in più, insomma. Esattamente. Comunque, tornando a noi... Però noi siamo un po' più eleganti, Vlad. Qua c'è Ottaviano che mi sta chiedendo chi è la radio. La radio. Per salutare la radio, Ottaviano. Ma infatti, ciao, in tutto questo, chi è Ottaviano? Niente, muto. In tutto questo, noi siamo Ottaviano di 4 anni. Che carino. Ma ciao, benvenuto anche a te. Forse speriamo non capisca troppo quello di cui parleremo. O forse, anzi, dovremmo augurarcelo. Chi lo sa? Dimmi, beh, 4 anni. Dimmi tutto. Ma chi, noi o Ottaviano? No, Ottaviano si è mutolito. Ok, radio ha detto Dio che cos'è, aiuto. Va bene Vlad, allora noi rompiamo così in questo tuo momento domenicale sacrosantissimo per romperti le scatole, perché noi siamo una radio molto seria, per cui nonostante questo modo in cui interagiamo in questo momento con le persone, abbiamo qualcosa da chiedere. Dimmi. Devi sapere. Che sarà dato. La puntata di oggi verte sulla mascolinità tossica egemonica. E noi adesso ci chiedevamo, tu, quando c'è qualcuno che ti piace, ti interessa, come ti approcci? Diciamo che la prima domanda è quella soft, più easy. Per metterti a tuo agio. È sparito, Vlad. È sparito. Vlad? Ottimo. Abbiamo fatto scappare. Scusate, ragazzi, avevo schiacciato il muto per sbaglio. Ah, ok. Pensavo fosse un messaggio molto chiaro nei nostri confronti. No. Allora, io tendenzialmente non mi approccio. Oh. quindi non sono molto, molto maschio alfa. Non rimorchio molto. Ma no, ma non ci crediamo. Però quando rimorchio bene. Beh, ma allora raccontaci cosa succede in questo atto di rimorchio, in quegli istanti di interazione, cosa succede? Ma allora, sondo il terreno molto lentamente, giusto per non ricevere quel bel no in faccia, bruttissimo. Ok. E quindi sguardi, bam, e poi... Lada, prova ad avvicinarti un po' meglio al microfono. Allora, ora com'è meglio? Meglio. Ok. Però non sono un beccaccione. Insomma, tendenzialmente. Scusami, hai detto non sei un? Un beccaccione, uno che becca tanto. non ci provo particolarmente. Diciamo che deve esserci proprio quella zona un po' comfort dove... ti senti a tuo agio per poter interagire, sì, prima conoscere, sì, magari, e poi sì, al limite. Sì, sì, e sì. In questi approcci tu li senti un po' questi sorti di giochi di ruolo che un pochettino sono imposti, ci vengono un po' richiesti, e quelle dinamiche lì che a volte sfociano anche un po' nel, non lo so, dover fare qualcosa appunto... Un po' nello stereotipo, ecco, forse. Sì. Ma allora, ti parlo da finocchio patentato, chiaramente, quindi è un po', ci piace. Un po' differente, ecco, un po' differente la cosa. Certo che c'è un'idea di quello che si dovrebbe essere, e questa cosa non è mai andata molto. Vlad, il microfono, per favore. Che non ti sentiamo. Ho un cellulare un po' del Menga. sono povero. sì e no, però un po', diciamo, la cosa di dover appartenere a uno stereotipo di quello che a livello di genere o a livello direttamente sessuale sei, poi però crescendo ho capito che l'importante è trovare se stessi e non cercare se stessi e non diventare qualche cosa per appartenere, però è complicato. Quindi comunque anche tu puoi dire dalla tua esperienza che comunque esiste questa cosa anche nel mondo non eterosessuale. Sì, certo che esiste. Ma tu diresti che... Siamo esseri umani come voi, eh? No, certo, ma è giusto fare queste domande in radio così che tutti possano anche ascoltare la risposta, no? Sì, è così. No, certo, che esistono. Prima gli abbiamo... animali sono sempre animali, gli esseri viventi in senso generale, viventi, animali siamo così, quindi poi in un modo o nell'altro assecondiamo delle inclinazioni di natura tramandate, esatto, da millenni, e quindi non è così semplice. Ma infatti il mondo omosessuale è molto chiuso, e anche molto, molti stereotipi e molti pregiudizi, tantissimi. Non è un mondo libero, aperto di gente, cioè la gente è gente, certo, e sì, quindi figurati. E infatti prima leggevamo, Gioia ci ha letto un estratto di un articolo pubblicato da Dynamo Press, e è interessante anche perché riporta un'intervista multipla, quindi sono tre diversi punti di vista, e appunto Renato, se non sbaglio, sì, parla proprio del punto di vista di una persona omosessuale, che dice come vengono assimilati anche all'interno del mondo LGBT determinate gli stessi stereotipi, quindi di questo tipo di mascolinità egemonica tossica. Beh, e quindi a me era capitato spesso che le ragazze con cui diventavo magari amico via dicendo ho sempre sognato l'amico gay, pensando ad esempio che a me piacesse fare shopping, intrecciare fiori e guardare Gossip Girl, ma purtroppo non è così, e quindi non ci sono, anzi tendenzialmente ho più amici maschi, cioè nel senso, quindi ci sono degli stereotipi chiaramente che vengono vissuti così, e della classica ma non si vede. Ok, anche tu sei scemo e non si direbbe prima vista, no? Poi però purtroppo, ma infatti poi adesso mi viene in mente una domanda che ho fatto anche prima a Jacopo, che abbiamo chiamato prima, ma ci vuoi raccontare magari un episodio divertente di un approccio che hai avuto, cioè nel senso che hai fatto tu, ma hai detto che non ne fai molti, quasi mai, quindi magari che hai ricevuto che è divertente, nel senso che magari ha creato un po' di imbarazzo, su cui magari tu dopo ti sei detto ah cacchio che coglione che sono stato, perché non ho capito quella situazione, oppure ho capito dell'altro, non lo so. Allora guarda, vabbè, la provocazione mi è sempre piaciuta, quindi già al liceo provocavo abbastanza, anche perché tipo ero l'unico praticamente, un po', poi non sapevo nemmeno io bene chi fossi, ma mi piaceva rompere il cazzo in quella scuola di fighetti dove andavo. E no, però mi ricordo una volta che io della risposta, cioè era una serata, quindi facevo l'approccio di quello di 30-40 anni più grande di te, che a me sinceramente proprio non è mai interessato. E ho ricevuto una bella manata sul dietro, e di là ho visto questo ottogenario praticamente ai miei occhi, perché avevo 20 anni, e ho detto papà, ma è già mezzanotte, sei venuto a prendermi, e ho avuto proprio questo momento bellissimo. E a parte questo basta, direi. Oh mamma, direi che oddio, per niente bello. E lui ci è rimasto molto male. Beh, ha avuto anche la prontezza di rispondere. E meno male che gli ho detto, sì, non so, ma è stato di solito, non ce l'ho, di solito sono quelle frasi che tu, no, capito, ti succede una roba, poi vorresti, non ti viene in mente, esatto, poi fai due passi e dici cavolo, avrei potuto dire così. E invece in quel momento è stato fantastico. E sono stato anche gentile, perché potevo dirgli nonno, però forse un minimo di educazione mi era rimasto. Certo. complimenti davvero. Va bene Vlad, ringraziamo tantissimo per il tempo che ci hai dedicato. E, ciao ragazze, non castrate tutti gli uomini che incontrate. No, infatti guarda, siamo brave, siamo proprio brave. Ci muoviamo in punta, se se lo meritano fatelo, cioè. Ma quelli che guarda, non li andiamo a chiamare, quelli che non sono, evitiamo proprio. Abbiamo solo quelli bravi e buoni. Okay. No, non è vero. non è vero, vi piace un po' il ragazzo cattivo. No, guarda, arrivata a una certa età, parlo per me. No, basta, ragazzo cattivo. No. Va bene, Vlad, ti ringraziamo. Buona domenica, a presto. Ciao. Buon Sant'Ambrose. Ciao. E così è interessante avere anche diversi punti di vista. Adesso riconnettiamo le altre. Tornano tutte le ribelle, perché qua un jack abbiamo, un'uscita. Quello è i dispositivi. come si dice in gergo tecnico. Adesso ci sento. Ciao ribelli, siete tornate? Siete ancora vive? Siete con noi? Soliti ritardi. Perché cos'è che non c'è che non va adesso? No, in realtà ci sono tutte in muto. Ah, sono... Sì, ok. Ma adesso è il momento della nostra Maya. Sì, sì, ma certo, certo. Yes, baby. È sempre un'energia quando rispondono le ribelli. le nostre cuffie sono surriscaldate. Ciao a tutte, tutte, tutto. Benvenuta, Maya. Maya, allora, tu come... Welcome back. Esatto. Intanto, esattamente, bentornata, che ancora non l'abbiamo fatto il benvenuto, il ben ritorno. E poi volevamo chiederti che cosa hai preparato per noi oggi. Allora, oggi parlerò... Leggerò degli estratti di un libro di Sandro Bellassai, che è un professore di storia sociale e culturale all'Università di Bologna. È un libro che si intitola L'invenzione della virilità e parla della politica e dell'immaginario maschile nell'Italia contemporanea. Dà una panoramica storica, sociale, culturale e politica di come appunto la virilità e la costruzione del virilismo italiano sia stata una parte integrante della nostra identità culturale, del nostro bagaglio politico ed empirico. Nel particolare, cioè nello specifico, io cercherò di far dialogare un pezzo di A Sor Rosa dell'85, tratto dall'Ultimo Paradosso, in cui parla appunto di un inizio di crisi del virilismo italiano durante gli anni 70-80, quando iniziano ad emergere appunto il femminismo radicale, i movimenti che ad un certo punto impongono il dibattito su determinati temi in una maniera molto dirompente. E l'ultimo appunto è l'estratto di un'intervista allo stesso Bellassai, che comunque un nome è bellissimo, Bellassai, se ci pensate, cioè è proprio Bellassai del 2007, e niente, è l'intervista con cui inizia il suo epilogo, due punti, un virilismo virtuale. Ora inizierò però col pezzo di A Sor Rosa. Uomini, sediamo da secoli in gruppo intorno ad una tavola, non importa se rotonda o quadrata, impartendo il comando cui la nostra funzione ci abilita, distribuendo il potere che il nostro ruolo ci assegna. Anche fra amici indossiamo corazza. I momenti più intimi della nostra conversazione passano tra celate accuratamente abbassate. A forza di tenere il corpo in armatura, ne risultiamo un poco rattrappiti. Le giunture scricchiolano e nel muovere ci procurano dolore. Talvolta ci sorge il sospetto che il nostro sacrificio, offerto a divinità tanto astratte quanto crudeli, come quelle che compongono la religione dell'ascetismo guerriero, sia scontato e inutile, e persino oggi un poco patetico. Ed aspriamo a uscire da qualche crepa della vecchia armatura, a scivolare furtivi sotto quel tavolo per guadagnare la porta della riunione e uscire a respirare aria pura. E, di cosa parla questo capitolo con cui inizia questo pezzo di A Sor Rosa? Appunto di come il modello identitario e in generale quello politico del virilismo appare già negli anni del boom sempre meno convincente, perché è una crisi della prospettiva virile che tocca il suo apice nei decenni degli anni 70-80, per lasciare spazio appunto a tutte quelle partite, tutti quei movimenti che a partire dal fine del millennio hanno sconvolto in maniera radicale la visione politica, almeno su determinati argomenti, cioè almeno su alcuni. Poi c'è stata tutta una terza ondata del nuovo millennio, appunto, di cui c'è questo rilascia queste parole. Penso semplicemente che, cioè, nella condizione maschile ci sia insita questo dovere di essere indipendenti, di essere autonomi. E poi c'è questa impossibilità di farlo veramente, o di esserlo completamente e tutto il resto appresso. E questo penso che sia avvertito con più senso di colpa rispetto alle ragazze, che avvertono, immagino, gli stessi problemi o problemi simili. Però per loro penso che sia più facile accettarlo. Da noi c'è anche un senso, non so, di disonore, di non potere, insomma, e la frustrazione del non potere. Quindi, appunto, il virilismo classico decade, perché non è più sostenibile, cioè è una cosa che materialmente ha troppe aspettative nel pratico da soddisfare. Però dice Bellassai che ritorna in un certo vocabolario, infatti continua dicendo che in apparenza nell'Italia di oggi la messa in scena della virilità sul palcoscenico politico è più, potremmo addirittura riconoscervi i vecchi vocabolari del razzismo, del dominio manu militari su paesi ricchi di risorse o strategici dal punto di vista geopolitico, dell'autoritarismo e perfino di un certo tipo di nazionalismo. Negli ultimi due casi hanno accreditato queste ipotesi storici non certo sprovveduti. Vabbè, appunto, come Ghibelli e Banti. Quindi la recente resurrezione del termine governatore ad indicare giornalisticamente i presidenti di regione con un'ansia americanofila e un po' megalomane che non smette di stupire, non deve preoccupare. È fuori discussione che ci sia una memoria del fatto che nella storia italiana essa accompagna ufficialmente per designare la suprema carica di un territorio coloniale. Quindi niente, questo per parlare di mascolinità egemonica, ma nel senso proprio stretto del termine, come sia l'egemonia sia legata ad una questione di conquista di potere nei ruoli quotidiani, geopolitici e coloniali, perché questo libro mi è stato regalato per la mia laurea, per appunto dimostrare come ad un certo punto anche l'era coloniale sia stata spinta da questa necessità di avere la certezza, sì, avere sì la certezza della propria contezza virile, andando a colonizzare. Beh, direi che è un ottimo relazione di causa effetto, no? Cioè proprio lineare, no? Sì. Per ovviamente rimanere ironica. Comunque interessante. Che merda. Quando è che andiamo a spaccare tutto? Però lo dicono anche gli accademici. Quindi si può dire perché, che comunque porci le domande. No, comunque, cioè, bisogna dire che ovviamente dopo quello che ci ha letto Maya, il concetto di virilità è chiaramente in trasformazione, ma non che non lo sia mai stato, lo è sempre stato, come qualsiasi cosa. Lo è sempre stato. Esatto. È stato creato su dei canoni che però sono resi mutati, cioè sono stati mutati da il crescere della società, del capitalismo, eccetera, eccetera, con il mutare della società stessa. Assolutamente. Però Giulia... sbagliato come si porta tutto. Maya, mi sa che ci siamo persi l'ultimo pezzettino. Dicevo che appunto bisogna riconoscerli e decostruirsi senza autodistruggersi. Problematizzare per, diciamo, mettere a critica per poter poi andare oltre. Non lo so, certo, ma è per migliorarsi, assolutamente. È la cosa che ripeto di più, me stessa. Esatto. È... Decostruire per ricostruire. A me meglio. Piace. Meglio, ovviamente. Ok, allora... Io lancerei una canzone. Una canzone, sì, vai con la canzone. Un attimino una canzone, però aspetta, che un chiediamo... Tune. No, una tune. Cara Lady J, vuoi dirci qualcosa su Dua Lipa? Boys will be boys. Ma certamente che voglio dirvela una cosa. Grazie. Allora, la prima, a parte che se, cioè, tipo per me, cioè, se esistesse Dio, sarebbe a sua immagine e somiglianza, credo, perché Dua Lipa è fenomenale. La prima strofa della canzone, di questa canzone in particolare, dice: è un'abitudine tornare a casa prima del tramonto e mettere le chiavi tra le dita quando ci sono ragazzi intorno. È divertente come ci ridiamo sopra per nascondere la nostra paura, vero? Ma non c'è nulla di divertente. Boys will be boys, i ragazzi saranno ragazzi. bad girls will be women, ma le ragazze diventeranno donne, che è un po' come parafrasare don't protect your daughter, educate your son, non proteggere tua figlia ma pensa ad educare tuo figlio. Minchia, direi che possiamo mandare nella boys parola... aspetta, non però boys anche portato... voi potete diventare qualcosa di meglio, quindi non è che io non vedo una, un determinismo, io vedo un'evoluzione possibile. Speriamo che diventino men. Esatto. No, quindi, da dire anche andate e seguite la parola di Dua Lipa. No? Stava. Vabbè, dai. Ascoltiamola. Grande. La lancio. Ciao. It's second nature to walk on before the sun goes down. Now put your keys between your knuckles when there's boys around. Isn't it funny how we laugh it off to hide our fear when there's nothing funny here? Sick intuition that they taught us so we won't freak out. We hide our figures doing anything to shut their mouths. We smile away to ease the tension so it don't go south. But there's nothing funny now. When we stop saying things cause they're all listening, no, the kids ain't alright. Oh, and they do what they see cause it's all on TV. Oh, the kids ain't alright. Boys will be, boys will be, boys will be, boys will be boys. But girls will be women. Boys will be, boys will be, boys will be, boys will be boys. But girls will be women. I'm sure if there's something that I can't find the words to say, I know that there will be a man around to save the day. And that was sarcasm in case you needed it mansplained. I should have stuck to ballet. When will we stop saying things cause they're all listening? No, the kids ain't alright. Oh, and they do what they see cause it's all on TV. Oh, the kids ain't alright. Boys will be, boys will be, boys will be, boys will be boys. But girls will be women. Boys will be, boys will be, boys will be, boys will be boys. But girls will be women. If you're offended by this song, you're clearly doing something wrong. If you're offended by this song, then you're probably saying but girls will be women. Vabbè, ma stupenda. Ma questo finale, che cosa voleva dire? Credo che sia legato al titolo, ma ce lo spiegherà la nostra fantastica Lady Jay, forse? Allora, il titolo sto vedendo, All Wet, tutti belli umidicci, bagnatini, però in realtà su internet non si trova granché su questa canzone. Io l'ho trovata perché ho shazammato violentemente il video promozione della Ferragni, no raga, cioè, assurdo, ho guardato le sue storie e c'era questa canzone su un suo video promozionale di qualcosa, boh, cosmetici, eccetera. Mi è capitato di vederla nelle sue storie, cioè mi è capitato di vedere le sue stories, perché qualche settimana fa c'è stato quel caso di revenge porn sulla maestra di Torino, il caso di quella roba orribile del tipo di facile.it che manco voglio nominare. E lei, cioè ero curiosa di vedere la sua presa di posizione sull'argomento e devo essere, cioè devo dire la verità, non la seguo, però sentire parlare lei di queste cose mi ha colpito, cioè nel senso vuol dire che ha raggiunto tantissime persone, spero che anche se al netto di tutto è un femminismo for dummies il suo, però spero che qualcuno si sia riavvicinato, cioè sia avvicinato alla tematica, a questi temi, diciamo, il femminismo. Che magari ha aperto un po' gli occhietti e quindi, cioè, in esatto. Questo video della Ferragni c'era sotto questa canzone qua? Esatto, sì. Vabbè, questa canzone è stupenda. Dopo, tra l'altro l'artista si chiama Bosco Rogers. Che trash. Adesso sarà il tappeto per il resto della puntata. Ci piace. Allora, mentre Giulia prepara il tappeto, io preparo la Perfetto. Chiamata. Quindi adesso devo fare questo change di Jack. Ok, ci sono quasi. E adesso. Adesso intrattengo la gente così. Chissà se risponderà e chissà chi sarà questa persona. Allora, io non lo so se risponde. E se risponde, secondo me, paura e panico. Benvenuto alle Ribelli, sei in diretta su Radio ZM. Yeah! Ah, ecco di chi era questo numero. Buongiorno, buonasera. Ma come ecco no, questo ma numero? No, in non realtà è... no, è il mio di numero. Ma è tuo? È il numero di Gioietti, non è il mio. Ma tu pensa? Cacchio, allora l'ho salvato malissimo. Ma come? Ma guarda, questa cosa mi offende profondamente. Ma benvenuto, caro Davide, sì. Come stai? Grazie, bene, bene, la prima chiamata che mi fate, voi come state? È perché devi sapere che è zona rossa che va a ammorbare le persone al telefono. Noi ribelli, cultura, infatti, e femminismo. Le ribelli. Spero sempre che non mi chiamino mai perché stanno addosso. Ma chi? Noi o io? No, zona rossa? No, zona rossa. Ah, ecco. No, infatti, noi abbiamo pensato di chiamare te per parlare oggi un pochettino del tema della giornata che abbiamo tenuto nascosto fino a adesso, praticamente. E il tema, macro tema, è la mascolinità tossica. Urca, però, proprio per mettere a proprio agio tutte le persone che avremmo chiamato. Abbiamo pensato di farlo attraverso una domandina facile facile, proprio per chiacchierare. Vai. Ovvero, quando una persona ti piace, tu come approcci? Come approcci? Come ci provi? Come ci provi? Ma tendenzialmente in modo non esplicito. Perché sono un po', non lo so, una difficoltà mia, ma in modo meno un esplicito timidino. Possibile. Ma sì... meno esplicito possibile, ecco. Ma per esempio? Ma per esempio, non lo so, ci parli un po', ci chiedi così, parlare un po' con le persone e vedi come va, semplicemente, no? Ma che cosa preferisci poi chiedere? Tendenzialmente adesso cosa succede? Con i social ci si iscrive o ci si becca e evidentemente si nota che c'è, non so, interesse reciproco. Ok, diciamo che quindi ci se deve essere... vedi che c'è interesse reciproco, se noti quella roba là, puoi andare avanti così tranquillamente a chiacchierare, se noti che non c'è, evidentemente non c'è, basta. E come noti che c'è l'interesse dall'altra parte? Quando è che secondo te, cioè qual è la... quando arriva quel momento in cui dici ok, sì, posso continuare a scrivere dei messaggi oppure... Guarda, io sono stolto, abbastanza stolto e non capisco, quindi se non me lo dici non lo noto. Carino. Quindi in parte dovrei capirlo perché non riuscirei a decifrare alcun qualsiasi parola o gesto. Quindi... Ma lo sai che anch'io sono così. Amore, per quello che siamo insieme. Wow! Che carino! Quindi a voi due bisogna dire mi piaci. Quanti punti ho preso? Esatto. Un sacco punti un femminismo sacco? E oddio. Antisessismo. No. Ma punti non una di meme? Aspetta, però io c'è una cosa che volevo... Perché abbiamo appena letto un pezzettino anche... Cioè, che ha molto a che fare con anche il colonialismo e tutto declinato uh-huh. anche sull'aspetto della conquista, no? Un po' questo uh-huh. stereotipo dell'uomo che deve... Poi vabbè, tu hai detto che tendenzialmente sei un po' timidino, ma tu invece, cioè adesso tolto il fatto dal quando una persona ti interessa, ti senti addosso un po' queste cose che anche chi ti sta attorno, la società, ti vengono appiccicate perché in quanto uomo... Poi vabbè, possiamo anche dirlo qua in diretta radio, essendo anche un bell'uomo, quindi... Ma va, c'è il pairazzo. No, non sento addosso questo tipo di... questa sensazione qua addosso, anzi, non lo so, non la vedo così e non... Beh, magari... Non è mai capitato di vederlo in questo modo. Ma magari perché hai sempre trovato il tuo di modo, che è quello un po' più timidino, cioè del... non approcciare clamorosamente una persona in maniera diretta. Ma poi la conquista di chi? Nel senso, se vuoi raccontare che la storia è sbattimento, vabbè, per chiamarla conquista, ma no, direi di no. Non mi appartiene. Vabbè, ma insomma, oggi abbiamo giocato facilissimo con degli uomini veramente molto, vabbè, molto bravi. Magari perché vabbè, la domanda è troppo facile. Dai, nel senso, ma chi è che cioè, i discotecari partono la conquista, capito? Chi va in discoteca solo per limonare e c'ha un obiettivo, capito? Se ne sbatte un po' il cazzo di tutta questa roba qua, non devi conquistare proprio nulla, anzi, al massimo... È che forse siamo tutti, allora, usando le tue parole, allora mi viene da dire che siamo un po' tutti e tutte tutto discotecaru. O no? Tutto? No, assolutamente no, c'è proprio una differenza, almeno sicuramente tra me e quel mondo là, e poi non so, però la gente così ce n'è dappertutto, dentro, fuori, di spazi sociali, così. Sì, mm-hmm. sì. Cioè, vedi, le serate trash, non so, le abbiamo viste tutti come ecco. Si dividono, cioè gente che si sbronza e gente che mica ti schiva addosso come una lumaca schifosa viscida, maschi anche femmine, nel senso ormone parti, capito? Ci sono due tipi di approcci. Ma infatti sì, secondo me hai ragione a dire che di sicuro in determinati ambiti magari c'è più consapevolezza, ma secondo me ci sono anche degli a dei livelli più inconsapevoli un po' tutte, perché anch'io mi ci metto sicuramente delle cose, le ho sbagliate, le sbaglio, le sbaglierò ancora, o comunque non ho un approccio così... slegato da stereotipi e da magari dinamiche anche un po' tossiche, egemoniche. A livello inconsapevole a volte secondo me un po' tutti ci rischiamo di sì. cadere. Però già il fatto che ne siamo più o meno consapevoli è un piccolo passo. E poi questa versione qua di Davide è molto timidino, ci piace molto. Sì. Ma infatti Davide, volevamo anche farti un'altra domanda. Sì, certo. La domanda è, qual è stato, cioè se ci racconti un episodio di un approccio che magari o hai ricevuto oppure tu hai fatto, che uh-huh. è particolarmente divertente perché magari anche imbarazzante? Sai che... Dai, non ci crediamo. Dire adesso. Ma no, ma tipo non so, magari una tipa che non è mai visto di qua e di là, ti chiama, ti gira, ti ficca la lingua in bocca e ti porta letteralmente via, capito? Quindi una roba del genere, direi. Diciamo che non è stata molto attenta al consenso, allora. Ma il consenso l'ho avuto, diciamo che, vabbè, nonostante la sbronza... Nonostante la sbronza l'ho perdonata, però all'inizio mi sono infastidito, che mi sono ritrovato comunque una lingua in bocca, non sapevo manco di chi cazzo fosse. E alla fine ho detto, vabbè, dai, pure una bella ragazza, andiamo, va. Cazzo ce ne frega. Sportività. Oddio. Sportività, vabbè, dai, poteva andare peggio, eh? Oh, beh, poteva andare peggio, quindi ok, va bene. Beh, capita, questo è abbastanza divertente. Beh, sì, però vedi, capita anche agli uomini a volte di subire dinamiche non proprio... Forse perché la mascolinità in realtà non appunto, è di un trasversale, genere. È trasversale. Bene, Davide, grazie. Vabbè, io non metto becco. No, scherzo, lascio tutte le riflessioni e li ascolto in diretta. Okay. Ah, ci stai ascoltando in diretta ma adesso? Ma che carino, ancora più carino questo Davide. Bravo. Dai, bacini. Grazie, la legna. Grazie mille. Un bacione, ciao Davide. Voi, bacioni, ciao a tutti, baci. Ciao. Beh, chiuso. <qua. ride> No, comunque, cioè, se adesso è arrivato il mio momento per raccontare la mia di storia imbarazzante. L'hai deciso da sola? Chi ti ha dato il permesso? Ma perché Davide me l'ha fatto tornare in mente? Perché da un lato mi sono sentita un po' violata quando è successo, dall'altro però mi dico, ma raga, ma che ridere. No, ma aspetta un attimo, perché poi mi viene da fare. Giustamente Davide adesso diceva, vedi che vi lascio fare le vostre considerazioni, perché io dicevo anche i maschietti. È che i maschietti, adesso scusate se li chiamo così, però hanno la tendenza un po' meno di noi forse anche a parlarne di queste cose. E poi io sono la prima che riconosce che certe tossicità attraversano tutto. Però ecco, di più difficile sentire. Poi vabbè, oggi abbiamo chiamato dei patatini, viene da dire proprio. Vabbè, io pensavo di trovare anche qualcosa di più, però bene, bene così. Vai Gioia, raccontaci il tuo momento imbarazzante. No, allora, il momento imbarazzante è stato quando durante una serata c'era già un flirt avviato tra te e qualcuno. E qualcuno. Ok. E niente, poi nel corso della serata, a un certo punto, cioè qualcuno si avvicina dietro di me e mi abbraccia da dietro. Io ero convintissima fosse la persona con cui stavo flirtando, ma davvero al 1000% ero sicura. E quindi non ho controllato chi cavolo fosse dietro di me. E quindi ho iniziato questo limone super passionale finché non mi sono girata, ho guardato chi fosse quella persona e gli ho detto scusami, ho sbagliato persona. E sono scappata. Io dov'ero? Però, certo, in queste serate ci sono io che faccio da bodyguard alle mie compagne più giovani. No, ma che Giulia, mi... cioè, se io adesso per fortuna ci rido, sì, ma no, io sul momento io ci sono rimasta di merda. Gioia, infatti mi viene a dire dov'ero io di solito. Mi sa che non c'eri a quella serata. Miseriaccia, ma però te, l'ho gestita. Comunque, aspetta, l'episodio poi finisce che mi raccontano che dopo che gli ho detto questa cosa, questa persona... tutta sbronza va tipo sotto cassa, prende un cocktail che era stato appoggiato su una di queste casse e se lo rovescia in testa. Questa è l'immagine che mi hanno dipinto del post quindi era una persona... discorso. Oh, mamma mia, gioia. Terribile, terribile e anche un po' imbarazzante. E ridiamoci sopra, dai, se ci rido sopra io. Sì. Bene, ok, andiamo avanti. E cos'era sulla scaletta? Accidenti. Dovrebbe toccare una canzone. Una canzone. Ok. Scusate che mi... non so se si sente, ma c'è il tappeto ancora il di Bosco Rogers. Vedevo il cigoglio della tua sedia. Io sento anche quello. No, allora, prossima canzone la mettiamo e chiediamo alla nostra Lady J se ci vuole fare una piccola intro di spiegazione. Allora, lei dovrebbe poterci sentire. Non vedo... No, aspetta. L'artista è okay. Collective mi sa che questo è tedesco. Turmstrasse. Perfetto. Grazie. Sorry, I am late. Lady J, cosa ci dici? Non ci dice sta scuotendo la testa? Dice no con la testa. Ma è in che muto? Quindi vabbè, al massimo glielo chiederemo dopo. Glielo chiederemo dopo. Intanto godetevi questa canzone, scelta per voi da Lady J. Oh. big walk wild. Uh-huh. Niggas put me through this shit like. Live the fast life, go. Whoever I forgot. Deep like, oh. Live the fast life, go. Fichissima anche questa canzone, la DJ. Ma posso andare? Vabbè, sì, ti sentiamo. Sei in radio. Sei in diretta. Allora, c'è qualcosa che vuoi raccontarci di questa canzone? Ma raga, adesso dopo cosa c'è? Cosa succede? Allora, noi adesso siamo di nuovo in onda. Direi che bisogna che mutiate i vostri microfoni, se no è un delirio. E se c'è la nostra Lady J che vuole raccontarci due cose sulla canzone, noi... Sorry, I'm late. Yes. Ma mi sentite, sì? Sì, noi ti sentiamo. Sì, sì, sì. Ma mi... Sì, ma prima non presenta, Jay. Ma no, ma io, cioè, non ho... Ok, sì, mi sa che qua ci sono dei problemi di corrispondenza audio. D'accordo, è bellissimo. Infatti penso che adesso toglierò il jack. Togliele. E metterò il muto, o forse no, non lo so. Anzi no, lo rimettiamo. E va bene, allora... noi adesso avremo un'altra lettura, ma prima direi che dobbiamo un attimo riassestarci dal punto di vista tecnico. Vuoi che mandi un'altra canzone? Questo che stai dicendo? Sì, sto dicendo, ma certo, questo. Cara. E eccoci qua, abbiamo... Mm-hmm. Sarà francese questa? Ma dai, prova a la leggerla. Caution. Te à la monte. À la monte. Monte. Monte. Ma tipo tune? No, una nuova tune. Tune. E vabbè, facciamo andare una canzone perché qui non si capisce più niente con no, il resto infatti, del gruppo. Stanno ridendo completo come delle disagio. Dannate. Va bene. E vabbè, rimanete connessi per favore. Buon ascolto. Ciao. Souvenir d'une madame Nicole, un style qui pensait qu'un bounou n'était pas fait pour l'école. Je portais un velours troué, des bottes rouges en plastique, une cagoule en laine, un chandail ou des plaies basket. Le coiffeur ne savait même pas encore que j'existais, mais sois sûr que le premier qui nous a vu s'est désisté. Pourtant jeune et innocent, la mort volait sans pinet. On squatte le bac à sable avec son sable et nos idées afin de faire du vandalisme, même sans le savoir. Nos parents n'ont pas, donc on erre sans avoir. D'après nos voisins, de gros racistes, je le précise, nous étions mal élevés, leur berger allemand mieux dressé. Moi j'y crois pas, d'ailleurs j'y ai jamais cru, car parental est le seul amour que j'ai jamais eu. Donc pour pas se vénère, ce qui met à l'amende les vertus du nène, donc du thé à la menthe. Bidonville, ambiance clandestine dans un bar à Barbès et à la menthe, couscous et tagine à la carte. Plus de scopitone pour Mouloud et Saïd Abdallah, avec un sale accent, pas de salam alek, me dit Hassan l'athlète, originaire d'Algérie, d'Hollywood à Tamanrasset. Plus de thé à la menthe, juste des palabres amères, comme un malade mental, j'ai mal à la tête, je cavale en Stan Smith, Adidas, jeans 501, savage m'en tape, ici c'est v'là l'attentat. Pour quelques douces de plus, y'a des carnages dans l'air, cette France me désintègre. On classe arabe comme un barbare bancal, nique la culture du barbecue, du steak et des fast-food au bled. C'est la djellaba et les sandales, Doujda à Casablanca. C'est banal en bas de la tête, j'm'emmerde et j'pèse que dalle. Ça se bat la frambade, mon rôle, ma peine et ma joie se confondent. Et c'est tout ce qui reste de notre héritage culturel. De notre héritage culturel. Adolescence, Nastas et 500, un pento, cassette de fond, quel daron, 505, mais 20 le mot, problème avec un grand P, face auquel tout le monde a tremblé ou rampé. Après l'innocence, le pessimisme s'est ancré, prend l'incandescence, le droit chemin s'est cambré. Je lui ai tendu la main et le bonheur m'a crampé. Genre seul l'argent et l'honneur peut me rendre vrai, mais si on peut t'accuser de choses que si t'avais fait, tu te pendrais. Il leur faut un arabe, un noir, ce que tu veux, bref, du concret. On a eu la chance de ne jamais se prendre au sérieux, côtoyer le vice sans jamais faire le saut périlleux. Loin du saut de l'ange, à l'école nouveau tour contre l'albatros de Beauterre. On s'est retrouvé dans le rap contre toute réelle attente. La recette sans pleurs, stylo était à la menthe. Allora, scusate per i piccoli problemi tecnici, se no non saremmo le ribelli. E no, visto che non ci sentivamo con le nostre compagne che sono connesse via internet. E una anche da Edimburgo. Una addirittura da Edimburgo. Non solo dalla provincia, anche da Edimburgo. Andiamo ovunque. Abbiamo messo due canzoni, le DJ, sia quella Sorry I'm Late dei Collective Turmstrasse e Te à la Monte, La Caution. Quindi ci vuoi dare qualche informazione? No. Allora, i Collective Turmstrasse, come Gioia mi correggerà, Turmstrasse, sono un duo di produttori tedeschi che di solito fanno techno. Vabbè, l'ho messa perché sostanzialmente mi piaceva, non c'era un motivo preciso sulla tematica. Invece La Caution, Te à la Menthe, è un inno contro il razzismo e il classismo. Parla di quanto sia importante l'educazione, essere educati all'uguaglianza tra le persone. Beh, direi che ci sta tutto con il tema del... Beh, compri? Sì. Compri, compri. Sei parfait. Risponde così. Sei parfait. Parfait. Grazie Jessica che sceglie sempre delle canzoni a tema. E niente, quindi ora è il momento di un'altra lettura. Cosa? Lady J, puoi ripetere? Buonasera. Va bene. Ciao Andrea. No, grazie, dicevo grazie a voi che mi date delle mie... Ciao. Comunque scusa Jessica, scusa. No, Marina. Siamo bellissime, siete non bellissime. Avete idea di cosa sta succedendo nel backstage di questa radio, è incredibile. Sì, siamo un po' nell'iperspazio. Vai Andrea, siamo tutte orecchi. Sì, sì. Vabbè, ve lo leggo, poi ne parliamo. Virilità e violenza. Se le donne, sottomesse a un lavoro di socializzazione che tende a diminuirle, a negarle, si formano e si addestrano alle virtù negative dell'abnegazione, della rassegnazione e del silenzio, anche gli uomini restano prigionieri e subdolamente vittime della rappresentazione dominante. Così come le disposizioni alla sottomissione, anche quelle che portano a rivendicare e ad esercitare il dominio, non sono iscritte in una natura e devono essere costruite attraverso un lungo lavoro di socializzazione, cioè, come si è visto, di differenziazione attiva in rapporto al sesso opposto. Lo status di uomo nel senso di vir implica un dover essere, una virtus, che si impone sul registro del va da sé, senza discussione, al pari della nobiltà, l'onore, che si è iscritto nel corpo sotto forma di insieme di disposizioni in apparenza naturali, spesso visibili, in un modo particolare di atteggiarsi, di atteggiare il proprio corpo, un portamento del capo, una posizione eretta, un modo di camminare, solidale a una maniera di pensare e agire, un ethos, una credenza. Governa l'uomo d'onore, senza l'intervento di alcuna costrizione esterna. L'onore dirige, nel doppio senso di governare e orientare, i suoi pensieri e le sue pratiche a guisa di una forza, è più forte di lui. Ma senza costringerlo meccanicamente, può tirarsi indietro e non essere all'altezza di quanto richiesto. Esso guida la sua azione come una necessità logica, non può fare diversamente se non vuole autonegarsi, ma senza imporsi a lui come una regola o come l'implacabile verdetto logico di una sorta di calcolo razionale. Questa forza superiore che può fargli accettare come inevitabili o scontati, cioè senza deliberazione né esame, atti che ad altri apparirebbero impossibili o impensabili. È la trascendenza sociale che si è fatta corpo e funziona come amorfati, amore del destino, inclinazione corporea a realizzare un'identità costituita in essenza sociale e così trasformata in destino. La nobiltà e il punto d'onore, intesi nel senso di insieme di disposizioni considerate nobili, sono il prodotto di un lavoro sociale di nominazione e di inculcazione al termine del quale un'identità sociale istituita da una di quelle linee di demarcazione mistica, secondo l'espressione di Virginia Woolf, conosciute e riconosciute da tutti, che il mondo sociale traccia. Si iscrive in una natura biologica e diviene habitus, legge sociale incorporata. Il privilegio maschile è anche una trappola e ha la sua contropartita nella tensione e nello scontro permanenti, spinti, a volte sino all'assurdo, che ogni uomo si vede imporre dal dovere di affermare in qualsiasi circostanza la sua virilità, nella misura in cui ha di fatto come soggetto un collettivo, la linea dinastica o la casa, a sua volta sottoposto alle esigenze che sono immanenti all'ordine simbolico. Il punto d'onore si presenta di fatto come un ideale, o meglio come un sistema di esigenze votato a restare, in più di un caso, inaccessibile. La virilità, intesa come capacità riproduttiva, sessuale e sociale, ma anche come attitudine alla lotta e all'esercizio della violenza, in particolare nella vendetta, è prima di tutto un carico. In opposizione alla donna, il cui onore essenzialmente negativo può essere solo difeso o perduto, in quanto legato, successivamente, alle virtù della verginità e della fedeltà. L'uomo veramente uomo è quello che si sente tenuto a essere all'altezza della possibilità che gli viene offerta di accrescere il suo onore, cercando la gloria e la distinzione nella sfera pubblica. L'esaltazione dei valori maschili ha una contropartita tenebrosa nelle paure e nelle angosce che la femminilità suscita, deboli e principi di debolezza in quanto incarnazione della vulnerabilità dell'onore e del sacro sinistro, sempre esposto all'offesa. Le donne sono forti di tutte le armi della debolezza, come l'astuzia diabolica e la magia. Tutto concorre così a fare dell'ideale impossibile della virilità il principio di un'immensa vulnerabilità. Ed è appunto questa vulnerabilità che porta paradossalmente all'investimento, a volte forsennato, in tutti i giochi di violenza maschili, come nella società, gli sport, e in modo particolare quelli più adatti a produrre i segni visibili della mascolinità e a manifestare e provare le qualità dette virili, come gli sport fondati sullo scontro fisico diretto. Come l'onore o la vergogna, la sua contropartita, che a differenza del senso di colpa sappiamo essere provata davanti agli altri, la virilità deve essere convalidata agli altri uomini alla sua verità di violenza attuale o potenziale e certificata dal riconoscimento dell'appartenenza al gruppo dei veri uomini. Molti riti di istituzioni, scolastici e militari soprattutto, comportano vere e proprie prove di virilità orientate verso il rafforzamento della solidarietà virili. Pratiche come certi stupri collettivi o opera di bande di adolescenti, variante declassata della visita collettiva al bordello, così viva nella memoria degli adolescenti borghesi, hanno lo scopo di mettere coloro che si sottopongono alla prova delle condizioni di affermare di fronte agli altri la loro virilità nella sua verità di violenza, cioè al di fuori di tutte le tenerezze, di tutti gli intenerimenti svilizzanti dell'amore, e manifestano in modo clamoroso l'eteronomia di tutte le affermazioni della virilità, la loro dipendenza nei confronti del giudizio del gruppo virile. Certe forme di coraggio, quelle richieste e riconosciute dagli esercizi e dai corpi di polizia, dalle bande di delinquenti, ma anche più banalmente da certi collettivi di lavoro, e che nel settore dell'edilizia in particolare inviano e costringono a respingere le misure di sicurezza o a negare o a sfidare il pericolo con comportamenti temerari, responsabili di numerosi incidenti, hanno la loro radice, paradossalmente, nella paura di perdere la stima o l'ammirazione del gruppo, di perdere la faccia di fronte ai compagni e di vedersi relegare nella categoria tipicamente femminile dei deboli, degli omicciattoli, delle femminucce, dei finocchi. Quello che chiamiamo coraggio trae così origine a volte da una forma di viltà. Per convincersene basterà ricordare le situazioni in cui, per indurre a commettere omicidi, torture o violenze carnali, la volontà di dominio, di sfruttamento o di oppressione si è appoggiata sul timore virile di escludersi dal mondo degli uomini inflessibili, da quelli che a volte dicono duri, perché resistono alle loro sofferenze, ma anche e soprattutto alle sofferenze degli altri, assassini, torturatori, capetti di tutte le dittature e di tutte le istituzioni totali, anche le più comuni, come le prigioni, le caserme e i collegi, ma anche i nuovi padroni d'assalto, che la geografia neoliberista esalta e che spesso sottoposti anch'essi a prove di coraggio corporeo, manifestano la loro maestria licenziando i dipendenti in soprannumero. La virilità, come si vede, è una nozione eminentemente relazionale, costituita di fronte e per gli altri uomini e contro la femminilità, in una sorta di paura del femminile e innanzitutto in se stessi. Questo era Pierre Bourdieu. E questo era Il dominio maschile, un capitolo che appunto si riferisce a violenza e virilità, e è visto da un punto di vista chiaramente più sociologico, sì, da un sociologo, è un filosofo, e lui applica, insomma, allarga agli studi sulla virilità e quindi alla mascolinità tossica, anche facendo degli studi in Algeria, in delle, appunto, delle società prettamente fallocentriche, ok, molto, molto forti. E lui appunto analizza un po' le cause di questa virilità violenta e le inserisce all'interno di quello che è la nostra costruzione sociale, la nostra costruzione personale. E quindi, come dicevamo prima, parlarne e accorgersene prima di tutto è il primo passo, perché chiaramente molte persone non si rendono proprio conto di quel che fanno, ma anche sia da un punto di vista femminile che maschile, certo, da ambo le parti. Certo, certo, infatti io ci tengo sempre anche a ricordare, ma non io perché io in quanto Gioia, ma è un io forse più collettivo, che sono tutte costruzioni sociali. Questo vuol dire che non sono innate, ma le abbiamo imparate, fatte nostre, sia a livello conscio, sia a livello soprattutto forse anche inconscio, e ce ne dobbiamo assolutamente accorgere, dobbiamo prendere coscienza, perché solo se prendiamo coscienza abbiamo margine di intervento e decostruire queste costruzioni sociali per costruirne di nuove, sane, e costruire quindi relazioni sane tra tutte le persone. Infatti, proprio di quello nel testo che ci leggeva Andrea, credo che sia molto interessante il passaggio di virilità contrapposta a questa femminilità che dovrebbe rappresentare in qualche modo una debolezza, certo, una vulnerabilità, e quindi questa contrapposizione costante. È un uomo, un vero uomo, per essere tale appunto non si deve mai dimostrare debole. È uno di quegli assunti abbastanza presenti nella nostra società, in ognuno di noi, e che avrebbe bisogno proprio di una, certo, anche la difficoltà, e questo si tramuta spesso anche nella difficoltà di chiedere aiuto, sì. Quindi sia mai che magari un uomo decida di farsi supportare da un punto di vista psicologico da qualche esperto o qualche esperta, e perché chiaramente questa cosa destabilizzerebbe, non dico tutto il suo essere, perché comunque ovviamente non possiamo parlare di tratti totalizzanti, ma sicuramente di tratti esistenti e presenti in ognuno, poi in forme, modi e intensità diverse, ma comunque presenti. Sì, che poi basterebbe a volte imparare un po' a comunicare quello che, certo, si pensa, si prova, già potrebbe essere un buon punto di partenza, sì, anche, sì, con chi si, sì, ecco, chi togliere si questa, il velo dell'imbarazzo, esatto, no? Di, perché ovviamente questo causa notevoli nevrosi anche all'interno di molti uomini, perché chiaramente si sentono affrontarsi anche in una società che li vuole in un modo, e quindi devono seguire degli stereotipi, esattamente come succede a noi, e si capisce bene come non essere se stessi, non poter essere se stessi, che sempre delle nevrosi. Certo, e con società si intende proprio la famiglia, gli amici, i compagni del calcetto, i compagni dell'università, il lavoro, quindi, cioè, i colleghi, quindi è questa società, non è nulla di astratto, non è nulla di immateriale, ma hanno forme e corpi e sono relazioni, per cui liberiamocene e costruiamo qualcosa di sano, che ci faccia star bene. Infatti, vi dico soltanto questa cosa, poi vi saluto. Lui scrive questo, Il dominio maschile, nel 98, e lui effettivamente la prima cosa che dice è che bisogna mettere in discussione le nostre istituzioni, le istituzioni dominanti, quali possono essere la chiesa, la scuola, le strutture sociali come le conosciamo noi oggi, perché ovviamente sono costruite su dei codici che vanno ovviamente a categorizzare qualsiasi cosa. Noi abbiamo bisogno di categorie e quindi lui dice decostruiamo queste categorie, ok, perché non danno libertà di espressione. E basta. Grazie Andre. Ho terminato. Grazie, grazie. Ottimo lo spunto. Ragazze. Per la nuova. Ciao bello, ciao a tutti. Ciao. No, ma per non te ne andare, Andre, rimani con noi. Perché se n'è andata? Ma sarà stato magari l'abitudine di altre volte, non lo so, non lo so. L'emozione. Torna, Andre. Comunque io manderei una canzoncina per riposarci un attimo mentalmente, magari invece riattivare i muscoli in queste giornate fredde. Cioè, attivare i muscoli in questo momento che c'è la Siberia qua. Appunto, da noi. Per riscaldarci. Per riscaldarci. Per riscaldarci, vuoi una canzoncina? Allora, Lady J, mi senti? Ciao. Ma certamente che eccola. Sento fortunatamente tutto, sì. Allora, stiamo per lanciare Raquel Rodriguez, Betray My Heart. Cosa vuoi dirci? Yes. Allora, Raquel Rodriguez è una cantante che ho scoperto ultimamente questa settimana. Mi piace molto perché Messico, America, Stati Uniti, e mixa un sacco di stili diversi, ha un timbro vocale molto bello. Ho scelto questa canzone in particolare perché, cioè, anche che non è sua, è un remake di un altro, di Betray My Heart di D'Angelo, che è un artista fenomenale che a me piace tantissimo. L'ho scelta perché lei è riuscita a non fare delle schifezze incredibili reinterpretandola, perché è veramente difficile interpretare questa canzone in modo egregio, invece lei ci è riuscita perfettamente. Brava, brava Raquel. E quindi gustatevi questa canzone scelta per voi da Lady J. As the day must have its sun, and the night must have its moon, so as both must rise and fall, I'll be there to see it through, just as long as there is time, I will never leave your side. And if ever that you feel that my love is not sincere, I will never betray my heart. I will never betray my heart. I will never betray my heart. Like the breeze it blows in June, I will stay, keep you cool, this I swear with all it's true, I'll take nothing in place of you, when you're feeling down, down, down, you my soul can depend on me, you don't ever have to fear that my love is not sincere, I will never betray my heart. I will never betray my heart. I will never betray my heart. Eccoci qui. Che delicatezza questa canzone. Sì, bellissima. Però qualche muscolo si è mosso e un po', almeno io mi sono riscaldata. Sì, a me si è scaldato il cuore. Oh mio Dio. Oh ma mio le Dio. Prossime due muscoli a go-go, ve lo dico. Wow. Faccio questo piccolo spoiler. Meno male, forse. Giulia, ma tu cosa stai facendo? No, no, spiega, adesso dobbiamo fermare tutto perché Giulia adesso mi deve spiegare ferma questa cosa. Mamma. Stavi sbadigliando. Ho dormito poco. Ma scusami, io notte non lo so, brava io non proprio. Ho parole. Notte guarda, bravissima. Non lo so, guarda. Non lo so, non lo so, non lo so. Non vedo l'ora di essere sotto il mio piumone, ma non perché mi stia annoiando, ma perché ho sonno. Ho proprio sonno. Beh, buon per te. Notte leoni, giorno dopo. Santo cielo. Allora io mentre grazie, grazie Tecla. Allora io adesso faccio il change del Jack, per cui compagne belle, ribelli care, se vorrete dire qualcosa in radio non vi sentirà nessuno, perché adesso andremo a fare un'altra chiamata. Giulia ancora, ma non è possibile, mi giro e sbadigli di nuovo, io non lo so, non ho parole. Intanto io metto un bel tappeto, cioè... Mettilo in testa, guarda. Mi metto un tappeto in testa. No, dai, rimetto questa canzone che era molto... Intanto vediamo se ci risponderanno. Sì, risponde perché chiedendogli se stava lavorando, l'ha incuriosito. Secondo me si aspetta una sola incredibile. Chi lo sa? Pronto? Ciao! Benvenuto! Sei sulle Ribelli in diretta! Ciao! Mica è un po' imbarazzato. Spaventatissimo anche. C'hai sì, paura, Povero Nilsino. Perché è povero? Perché ti abbiamo messo un po' in imbarazzo, abbiamo fatto irruzione in casa tua o dove in questo momento ti trovi, magari in bagno, non lo sappiamo. Sto vedendo una serie trash, un film trash cinese nello smonto notte con mio amico Giorgio. Quindi sei ingrintissima. Ah. Allora, allora c'è anche Giorgio, per cui direi che perfetto, le domande valgono doppie. Con una fava. Esattamente. Praticamente no, noi... Noi oggi, ma no, ma non vabbè. C'entra, ma infatti bisogna semplicemente permettere che noi stiamo chiamando un po' sulla scia dell'altro programma di questa fantastica radio che si chiama, cioè programma che si chiama Zona Rossa. È chiaramente uno strumento un po' curioso, ma fatto dalle Ribelli direi che assume tutt'altro tono. Diciamo che noi ci abbiamo messo un contenuto. Esattamente. Però diciamo che, come nelle puntate di Zona Rossa, c'è sempre una domanda guida. Dopodiché questa domanda guida nel programma delle Ribelli si inserisce in un contesto, in un argomento che guida tutta la puntata. E l'argomento della puntata, quindi il macro tema, è la mascolinità tossica egemonica. E la domanda in questione in realtà è una domanda molto semplice, poi voi due so che non siete scapoli, per cui magari vi sentirete un po' in imbarazzo, ma andate tranquilli, rilassatevi, perché ovviamente non c'è una risposta giusta o sbagliata e comunque sia sicuramente nessuno si offenderà. La domanda, Giulia, vuoi avere tu l'onore di farla? Ma certamente. Caro Nils, caro Giorgio, anche che sei lì accanto, visto che vi abbiamo disturbato la visione della serie, voi quando c'è qualcuno che vi piace, come approcciate? Bella domanda. Cioè dipende, non è che c'è una formula universale. Ok. Però non è che ci deve essere uno schema, perché immagino dipende da chi è di fronte, dalla situazione in cui si è, bla bla bla. Però diciamo che Nils ha dei modi in quanto Nils. Come Giorgio avrà dei modi in quanto Giorgio. Ma dipende, personalmente se dipende dal contesto anche, se sono in un contesto ludico, se sono in un altro contesto. Okay. Diciamo che se è una serata sarà in un modo, se è un altro posto sarà in un altro. Ma c'è un comune denominatore tra una situazione e l'altra? Cioè, il primo approccio sicuramente cambia tra tutte queste cose, ma come funziona? Secondo me in comune è vedere i segnali, che i feedback, e capire quelli. Ok, ma i segnali rispondono a qualcosa che tu fai, no? E a noi ci piacerebbe sapere che cosa fai. Magari fai l'esempio di un contesto. Ma non lo so. Cercai di far ridere. Che bello. Questo mi piace. E diciamo che se risponde ridendo è un buon feedback. Magari sì. Oppure sta pensando che coglione che esatto. Ho di fronte. Risata isterica. Beh, ok, ma quindi tu partiresti da una battuta, no? Ma poi nel senso, nell'approccio, nel complesso, cioè ti fermi a questo o una volta che l'altra persona risponde magari ridendo con piacere di quello che hai detto, si ferma lì o va avanti? Beh, se i segnali sono positivi, cioè cerchi di ridurre la distanza che ci può essere. E come? Ma che cazzo ne so, dipende, cioè, non è che, cioè, non è che ho letto il manuale. Ma no, perché appunto, Nils, noi volevamo un po' introdurre la tematica della giornata in una maniera anche un po' più soft, un po' più, non dico goliardica, sì, perché non lo è, ma in leggerezza. Però appunto abbiamo appena letto con Andrea un testo che parla anche di virilità, questa sorta di questa costruzione sociale che vuole che l'uomo sia in un determinato modo. Lei ci leggeva questo brano, specificava in particolar modo che è una sorta di contrapposizione anche alla vulnerabilità femminile, e quindi anche questo incasellamento già molto stabilito, e quindi attraverso anche questa domandina un po' più leggera è arrivare a capire se i nostri interlocutori si sentono un pochettino anche loro a volte incasellati e stretti in questa sorta di, in questa costruzione qua, o se appunto invece se ne sono liberati. E già tu dicendo io cerco di farla ridere e vedo delle risposte, diciamo che sai instaurare un dialogo e capire che cosa sta succedendo. Mi sembra di capire. Sono stato promosso. Ma sì. Che sciocchino. Molto, molto sciocchino. No, scusami, non ti volevo interrompere. Che bravo questo. Guarda. Beh, solo perché qua è qua con noi alla nostra puntata delle ribelli fa così, sennò sì, è un po' Primonello. Di solito sì, lo so che è un birichino pure lui, però devo dire che dai, Nils, io lo conosco ormai da un po' di anni, è cambiato tanto. Sì, si sta impegnando. Sì. Quindi grazie. Ci siamo liberati, Nils, di questa virilità imposta dalla società? No. No. No, beh, parlavo di te, cioè a te lo chiedo. Di me? Sì. Vabbè, no, però diciamo ci proviamo, come dici tu. E ma ecco, per esempio, in questo caso tu com'è che fai? Ti confronti con chi è accanto, la tua compagna, i tuoi compagni, collettivo, tua sorella? Non lo so, com'è che fai a capire? Di solito al contrario, quando vedo che qualcosa non va mi pongo il problema. E quindi ci ragioni e cerchi di venirne a capo. E il confronto però diretto con qualcuno è un po' più difficile? Sì, diciamo che è più difficile. Perché cioè, uscire dal nulla, cioè se qualcosa scatena qualche cosa, ok. Però se dal nulla non è che uno ha le illuminazioni. Beato chi ha le illuminazioni. Beh dai, diciamo che volendo noi abbiamo a disposizione tutta una serie di strumenti che anche se non c'è un evento scatenante, magari qualche domandina su di sé, possiamo anche farcela, dai. Poi tu hai la fortuna di avere un bellissimo collettivo con delle compagne tostissime, oserei dire, che ne conosco qualcuno. È una sorella meravigliosa. Una sorella meravigliosa e diciamo che il confronto è più facile. E l'amico Giorgio vuole dire qualcosa in tal proposito? O... No, lui si sta preparando mentalmente alla seconda notte. Accidenti, perché dobbiamo e dovete sapere, ascoltatori e ascoltatrici, che stiamo parlando con degli infermieri, i nostri angeli. Eroi. Quindi sì, hanno dei turni un po' matti. Diciamo che li abbiamo anche beccati magari una giornata. La dopo giornata il no. Tosta. Comunque, per concludere, Nilsino caro, avresti il piacere di condividere con noi un episodio di un approccio che magari hai fatto tu o che magari qualcun'altra o qualcun altro ha avuto con te? E che è particolarmente divertente, magari anche un filino anche imbarazzante. Sì. Raccontaci. Cioè, l'episodio mi viene in mente, però è imbarazzante, lo premetto. Va bene. Se te la senti di raccontarlo in radio in diretta sì. Mondiale. Ma mi è successo che una serata, cioè sembrava esserci feeling con una ragazza, e ho in uno spazio occupato nuovo, poi io gli ho proposto così, facciamoci un giro per diciamo trovare un ambiente più intimo, e lei mi ha detto va bene, siamo andati a vedere lo spazio e a un certo punto ho provato a baciarla e diciamo, si è allontanata, l'ho guardato tipo atterrita come per dire ma che cosa stai facendo? E io tipo di solito è stato rosso proprio come un peperone. Cioè, tipo proprio due lunghezze d'onda diverse, però vabbè, è andata così. Succede a volte di malinterpretare i segnali. Eh sì. E beh, immagino che non sia stato molto piacevole neanche per te, ma neanche per lei. No, no, infatti. Ma poi credo di essere stato relativamente alticcio, molto più verso di lei. Quindi anche due lunghezze d'onda per quello. L'alcol qua bisogna proprio, insomma... Un po' problematizzarlo. Sì. Va bene, Nils. Hai passato l'esame. Bravo! No, non è vero, non era un esame. Voleva essere... Il test d'ammissione. No, un modo per confrontarci tutte e tutti insieme, anche a livello un po' più simpatico, ma anche un po' diretto, ecco, perché magari c'è anche questa esigenza nell'ultimo periodo, non lo so. Le ribelli hanno voluto fare un po' le birichine oggi, continuo a dirlo. Continuate così. Bravo, grazie. E voi ascoltateci, mi raccomando, che ci sono anche dei grandi pezzoni musicali. Ciao, buona serata. Ciao, Nils, ciao, presto. Ciao, Giorgio. Ciao. No, sono molto contenta di tutte le telefonate che abbiamo fatto. Adesso faccio di nuovo il change jack. Giulia, se nel frattempo puoi intrattenere con musichette di sottofondo, allora, o con la tua voce. Il tappeto c'è. E visto che è un tappeto, in gergo tecnico appunto quando si mette la musica sotto, che la si sente ma non interferisce con il parlato, proprio perché siamo in radio, e ho imparato a farlo, spero bene, e me lo direte voi ascoltatori, voi ascoltatrici. E niente, sono tornate le nostre amiche ribelli. Sono tornate, assolutamente. Direi Eccole. Che sì. E direi che prima di... cioè adesso ci stiamo avviando alla conclusione di questa puntata, che è stata più lunga del solito, ma perché comunque di cose da dire ce n'è sempre tantissime. Per cui intanto io direi mandiamo una canzoncina per rilassare il corpo e riattivare i muscoli, come dicevo prima, mi piace tantissimo questa frase. E poi direi che andiamo avanti con una brevissima lettura. Conclusiva. Lady J, stiamo per mettere dei Fleetwood Mac Everywhere. Cosa ci dici in tal proposito? A tal proposito è in muto e fa delle facce buffe. quindi direi che lo chiederemo dopo. Niente, a me stupisce, c'è una data in questa canzone, mi chiedo se è la data di uscita della canzone, perché in tal caso, senza dirlo, Gioia, ti sto già guardando malissimo, è il mio anno di nascita. Questa canzone in casa la merita. Posso dire una cosa che non ha senso, che vorrei dirla? Certo. No, mi sa che è ritornata in muto. No, ce la possiamo fare? Ce vai la faremo? Vai Ge. Ok, adesso l'ha tolto, ma non sta parlando. Ma va bene, dai, mettiamo questa canzone e poi ce la racconterà. E rieccoci qui. E... Allora. Eccole. Ciao raga, cioè mi sta scrivendo. Ciao. Sono davvero ciao. Cose carinate stasera, molto, le ribelli. Molto. Indisciplinatissime. Che parola difficile tra l'altro da dire. Sì. Dicono finisce la canzone, Jet. Bene, ottimo. Ora lo sanno anche tutte le persone. Esattamente. Quindi c'è evidentemente. Yes, però mi devono dire quando, perché io non ho. Esattamente, qua c'è anche un ritardo. Quando. Ma infatti non. Bene, ho fatto questa cosa molto, molto... Con cattiveria proprio. Con molta cattiveria, perché mi sto anche un po' agitando. Ma no, non agitarti, Gioia, sì. Sono i problemi della diretta, capita, le volte di solito abbiamo problemi con la... Quindi, cosa sta succedendo però? Adesso c'è una cosa strana. Continuano a parlare nonostante comunque non abbassa si senta. Abbassa completamente il volume del... Sì, hai ragione, così computer. Almeno noi non le sentiamo. Tanto i nostri ascoltatori e ascoltatrici non le sentono. Però intanto. Il problema è che doveva leggere Tecla. Lo so, ma infatti adesso spero che si stiano un attimo... Tu li intrattieni, va bene? Ok, allora, intrattengo... E niente, spero intanto, perché ci abbiamo la conclusione della puntata di oggi, spero vi sia piaciuta la nostra birichinata, si può dire, chi lo sa, che abbiamo fatto un po' le birichine perché non abbiamo voluto sponsorizzare la tematica della puntata, proprio per lasciare un po' di suspense, e ho visto che ha funzionato un pochetto. E spero che Zona Rossa si senta onorata della modalità che abbiamo scelto di utilizzare oggi, delle telefonate a casa, proprio perché è uno strumento ancora per arrivare più vicino, e noi lo volevamo sfruttare per chiacchierare appunto soprattutto con la parte maschile. Ovviamente noi ve l'abbiamo detto, ma qua non è successo praticamente nulla, non ci avete scritto. Fatelo presto. E niente, problemi tecnici con il computer e le ribelli online continuano. Io posso intrattenervi anche sul fatto che, ecco, una cosa interessante, appunto stavo dicendo, scriveteci magari se avete considerazioni anche nei prossimi giorni, non è per forza durante soltanto la diretta, e poi vi segnaliamo il fatto che il podcast di solito esce abbastanza in fretta e potete riascoltare la puntata o ascoltarla, perché so per certo che qualcuno non è riuscito a connettersi. Ai. E così potete mandare delle considerazioni che avete a riguardo. Credo che ci sia assolutamente necessità di parlare di mascolinità tossica, non in senso troppo teorico, ma anche praticità, quello che avviene ad ognuna di noi, ad ognuno di noi nella nostra quotidianità, tante piccole atteggiamenti, parole, azioni che possono sembrare appunto, come dicevamo prima, un uso, un'abitudine, ma che andrebbero appunto messe in discussione. E per essere messe in discussione, come ci insegnano ormai le nostre compagne femministe da parecchi anni, il punto di partenza è il partire da sé, che non è un concetto così astruso e complicato, basta mettersi un attimino in, appunto, aprirsi e parlare anche liberamente, fare in modo che appunto sentirsi anche nella condizione di accogliere quello che può arrivare di bello e di brutto, e decostruire appunto queste cose, cambiarle, modificarle, ma già metterle in discussione sarebbe una cosa, un primo passo molto potente, molto interessante. Niente, con la connessione ci siamo quasi. E non ho più messo il tappeto, peccato, ho imparato a fare questa cosa, me ne sono già dimenticata. Te lo chi il tappeto, che carino. E, è uno strumento ancora per arrivare più vicino, e noi lo volevamo sfruttare per chiacchierare appunto soprattutto con la parte. Quindi dovremmo chiedere a Lorenzo di tagliare, fare, brigare, perché sì, ma magari si potrebbe fare che la lettura a questo punto la facciamo noi da qui. Sì. E in questo modo non continuiamo fino all'infinito con questi problemi tecnici, quindi adesso faccio la magia e la nostra Gioia recupererà, esatto, l'ultima lettura, che posso dare una sorta di, che non è una spiegazione, certo, ma noi ribelli speriamo che possa essere una sorta di invito, mm-hmm, per tutti, in particolar modo, perché adesso leggerete, e cioè Gioia leggerà e quindi ascolterete, capirete, ma che possa essere soprattutto uno stimolo a porsi qualche domandina e a interrogarsi su di sé. Ok, allora questo è un breve testo che è stato scritto, non so, si può dire da chi è stato scritto? Sì. È anonimo. Sì, ok, comunque che è stato pubblicato, è un testo anonimo, esattamente, di un'autrice. Allora, il testo dice questo. Mio amato uomo, ti libero dalla storia in cui devi sempre essere il principe, il coraggioso o il soccorritore e, naturalmente, il principe azzurro. Ti libero dalla storia in cui cerchi, salvi e ami solo una principessa. Che ne dici se invece amassi la strega, il drago, la contadina, quella che si salva da sola, quella che non vive nel castello, quella che non è la più bella, tranne che per i tuoi occhi? Ti libero dalla storia in cui devi essere un colore, il blu. Che modo assurdo di classificarti con un mondo di colori, sapori e opportunità per te. Vesti il colore che vuoi, rosso, giallo, nero, arcobaleno, quello che vuoi. Ti libero dalla storia in cui sei sempre il più forte, il più coraggioso, il più bello e quello che ovviamente possiede già un castello. Quello che ha tesori e ricchezze o almeno qualche eredità. Anche tu sei stato danneggiato e hai imposto stereotipi di coraggio, possesso e forza. Ti libero dalla storia in cui non ti è mai permesso di piangere, dove non esistono confusione, caos e sconfitta, dove hai capito che tuo padre non è un re. E se tu non volessi essere l'eroe? Forse vuoi essere cattivo, quello che non può, quello che rinuncia a tutto, quello che si salva e quello che non vuole avere una principessa o una storia di si sono sposati ed erano felici per sempre. Ti libero dalla storia in cui ci sono sempre mille battaglie, mostri, draghi, oscurità e con essa lo slogan che tutto deve essere combattuto, che tutto è guerra e competizione. Quanto deve essere stancante essere un cavaliere in guerra per l'eternità. Ti libero dalla storia, dall'incantesimo e dall'amore magico e imposto, in modo che tu possa costruire meglio il tuo mondo a modo tuo, come scegli e dalla tua identità. Ti esonero dalla storia e ti dico, abbiamo già imparato a salvarci. Non siamo tutte fragili principesse, non siamo più addormentate o intrappolate nella nostra storia. Amiamo l'uomo che ride, gioca, è intelligente, sarcastico, sensibile, a volte pauroso e piagnucoloso. Abbiamo già lasciato la storia e ti aspettiamo da questa parte, nella vita reale dove puoi essere tu e io posso essere me, senza così tanta storia. Liberatevi, liberiamoci. È molto, molto bella, molto bella, sì. Sì. Ci spiace aver esonerato le altre. Il resto del gruppo, spero ci perdoneranno, ma era proprio un disagio tecnologico. Esatto, un po' necessario. Qui adesso... Incursioni in radio! Esatto, esattamente. Benvenuta Benedetta! Vieni a salutare. Ciao a tutti e tutte. Yeah, bravissima. Che voce, che donna. Va bene, allora direi che ormai... Con questo testo sì, abbiamo lanciato proprio un saluto, direi, fantastico. Sì. Magari lo mandiamo attraverso i nostri canali, così chi non l'ha letto, perché è girato tanto su Facebook, chi non l'ha letto può leggerlo e rileggerlo con calma. E vi salutiamo rilanciando la prossima puntata, domenica prossima alle 17, sempre su Radio ZAM. Seguite i nostri canali, vero Gioia? Assolutamente. Ali, devo dire? Sì. Ok, allora, potete seguirci sulla pagina Instagram delle Ribelli, cercando le /ribelli/ZAM. Brava. C'è anche il canale Instagram della radio, che però non me lo ricordo. Radio ZAM Misud. Perfetto. Poi ci potete anche seguire su Facebook alla pagina della radio, Radio ZAM, e poi ovviamente ci potete scrivere in un qualsiasi momento sulla, sul canale Telegram, sulla chat, sulla perché chat, il canale esatto, ricevono solo. Hai ragione, sulla chat Telegram, che è chiocciola radio, radio ZAM trattino basso chat. Va bene. Perché sono troppi, e questo e su Archive trovate tutti quanti i podcast anche sul sito di ZAM, www.zam-milano.it. Yeah. Mamma quindi mia. Adesso ascoltiamoci questa canzone e noi vi salutiamo calorosissimamente, vi ringraziamo per la pazienza e l'ascolto e vi auguriamo una buona serata. Ciao. Ciao. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah, I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. When I'm working, yes, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. When the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, when I come home, oh, I know I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well, I know I'm gonna be the man who's growing older than you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door. When I'm lonely, well I know I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, well I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out, when I go out, well I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, when I come home, yes, I know I'm gonna be the man who comes back home with you. I'm gonna be the man who's coming home.